giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. La mafia colpisce uomini dello Stato, che lo Stato non ha saputo difendere. Le parole scritte dal giudice Giovanni Falcone pesano come macigni dopo la strage di Capaci del 23 maggio del 92. La mafia ha un obiettivo: annientare giudici, magistrati, poliziotti e carabinieri, fedeli alle istituzioni, quelli che hanno studiato a fondo le dinamiche interne a Cosa Nostra e per questo sono in grado di agire in modo rapido, coordinato ed efficace. Ecco perché dopo Giovanni Falcone, nel mirino della mafia stragista c'era amico e collega Paolo Borsellino, l'erede ideale del pool antimafia istituito a Palermo. È il 19 luglio 1992. Il mio problema è il tempo. Chi lo conosceva bene glielo avrà sentito ripetere più volte durante quei 57 giorni dell'estate 1992. Morto Falcone, Paolo Borsellino sapeva di essere per Cosa Nostra il primo della lista. Il 19 luglio 1992 a Palermo è una calda domenica. Le indagini sulla morte di Giovanni non competono a Borsellino, ma alle 7 del mattino il procuratore Gianmanco gli comunica telefonicamente che finalmente potrà occuparsi anche delle indagini su Palermo e provincia, come lui da tempo richiedeva. Pranza in famiglia nella casa di Villa Grazia di Carini. Poi, nel tardo pomeriggio, decide di far visita all'anziana madre. Tra il mare e la casa della signora Maria a Palermo c'è un'autostrada. E quel pomeriggio le tre croma blindate su cui viaggiano il giudice e la sua scorta transitano vicino allo svincolo di Capaci, dove una striscia di vernice rosso sangue sul guardrail già ricorda la strage del 23 maggio. Arrivati in città, la comitiva raggiunge via Mariano D'Amelio, una strada chiusa, ostruita al fondo da un muro di tufo che recinta un cantiere edile. Paolo Borsellino fa in tempo a citofonare al numero civico 21, quando alle sue spalle esplode una Fiat 126 carica di tritolo. Muore sul colpo e con lui sei uomini della scorta: Antonio Vullo, Emanuele Aloi, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli e Agostino Catalano. Paolo Borsellino nasce a Palermo nel 1940. Dopo la laurea in giurisprudenza supera il concorso in magistratura. È il 1963. Due anni dopo è uditore giudiziario ad Enna, dal 67 pretore a Mazara del Vallo e poi a Monreale. Nel 1975 al Tribunale di Palermo indaga sulla mafia presso l'ufficio istruzione e processi penali. Poco dopo entra nel pool antimafia. Nell'84 Tommaso Buscetta si pente e Borsellino inizia la preparazione del maxi processo a fianco di Giovanni Falcone. In seguito il procuratore a Marsala indaga sulla strage di Ustica, poi torna a Palermo dove gli vengono assegnate le indagini sulle cosche di Agrigento e di Trapani. Dopo le inchieste giungeranno i processi. Ecco la storia del lungo iter giudiziario. Per la strage di Via D'Amelio sono stati celebrati tre processi. Il primo, quello contro gli esecutori materiali dell'attentato, si è concluso di fronte alla prima sezione penale della Corte di Cassazione il 18 dicembre 2000, con la condanna all'ergastolo di Salvatore Profeta e Gaetano Scotto, rimasto in latitanza fino al 7 agosto 2000. 9 anni sono stati inflitti per favoreggiamento a Giuseppe Orofino, mentre Vincenzo Scarantino, il collaboratore che con le sue dichiarazioni in primo grado, in seguito ritrattate, aveva determinato il carcere a vita per Orofino, è stato condannato a 18 anni. I processi Bis e Ter, invece, hanno puntato all'individuazione dei mandanti della strage. Il 9 dicembre 1999 si è concluso il processo Ter di primo grado dinanzi alla terza sezione della Corte d'Assise di Caltanissetta. 17 condanne all'ergastolo hanno colpito alcuni pezzi da 90 di Cosa Nostra, tra cui Nitto Santapaola, Bernardo Brusca, Pippo Calò, Michelangelo La Barbera e Bernardo Provenzano, latitante da 38 anni. Antonino Ingroia, sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, è considerato uno degli allievi di Paolo Borsellino. Fu stretto collaboratore del magistrato ucciso dal 1987 fino all'estate del 92. Il 92 è quella stagione terribile delle stragi, diede l'impressione di uno Stato impotente, di uno Stato piegato, e di una mafia fortissima e invincibile. questo gettò nello sconforto tutti gli italiani, ma nel contempo determinò una reazione di tutta la comunità nazionale, prima di lo sdegno, la rabbia, ma anche la reazione civile, il coraggio e una forte richiesta di reazione da parte dello Stato. Quella reazione da parte dello Stato ci fu una reazione corale, collettiva a tutti i livelli, di tutte le istituzioni, non solo quelle giudiziarie e di polizia, ma anche parlamentari, governative. Vi fu un impegno, direi, a 360 gradi, sicuramente, direi senza precedenti, che si tradusse in un'azione concreta, misure legislative all'altezza dello scontro, misure di tipo amministrativo, di impiego di uomini e mezzi, che determinò una sorta di vero e proprio circolo virtuoso tra Stato e società civile che si ritrovarono unite nel contrasto alla mafia. Questo determinò quella fase che prima dicevo, una fase di grandi risultati, importanti, sia sul piano repressivo sia sul piano anche della sensibilità, della coscienza antimafia, di un recupero di legalità in terre che erano afflitte dal vero e proprio controllo della mafia, che si tradusse poi in risultati operativi importanti come la cattura di tantissimi latitanti di mafia importanti nel breve volgere di qualche anno, da Dottor Riina in poi l'elenco sarebbe lunghissimo, l'individuazione dei responsabili di quelle stragi che furono processati e molti di questi già condannati. Anna Maria Palma, pubblico ministero che ha indagato a Caltanissetta sulla strage di Via D'Amelio. Le abbiamo chiesto qual è stato il ruolo dei pentiti negli sviluppi dell'inchiesta sull'assassino di Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. Devo dire che sono rimasti non sufficientemente esplorati alcuni aspetti di questa strage. Mi riferisco sia ad alcune fasi esecutive che ancora oggi ci sono sconosciute, sia agli scenari esterni all'organizzazione mafiosa che sono rimasti soltanto forse delineati o addirittura insufficientemente delineati. Sono rimasti molti aspetti oscuri ancora oggi. Io ritengo che questa strage di Via D'Amelio sia stata una strage per certi versi diversa da quella di Capaci. Le do un'indiretta conferma riferendo che uno dei principali collaboratori della strage del dottore Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, in realtà prima di parlare del suo coinvolgimento in questa strage ha atteso ben 4 anni. Quindi ci sono stati degli aspetti peculiari particolari che hanno creato delle grosse difficoltà investigative, difficoltà che invece non si sono incontrate nel chiarire quantomeno appunto nei suoi aspetti generali e anche esecutivi la strage di Capaci. Io sono andata via da Caltanissetta e so che i colleghi continuano a lavorare. Voglio sperare che riescano a capire che cosa è effettivamente successo, anche se non sono particolarmente ottimista, perché come lei ben saprà l'introduzione della nuova legge sulla collaborazione ha di fatto quasi vanificato questo strumento che per noi era fondamentale e per certi versi decisivo. Quello che sentirete è quanto ci lascia ancora oggi Paolo Borsellino. Il pensiero di chi intende affermare la cultura della legalità in Italia oggi. Quella lotta alla criminalità in ogni sua forma, lasciata come testamento a futura memoria, soprattutto per i più giovani. Uno dei maggiori punti di forza dell'organizzazione mafiosa è il consenso. È il consenso che circonda queste organizzazioni e che contraddistingue queste organizzazioni da qualsiasi altra organizzazione di criminalità organizzata. Se i giovani oggi cominciano a crescere e a svilupparsi, a diventare adulti, non trovando naturale di dare questo consenso all'organizzazione mafiosa o di ritenere che con essa si possa convivere,